Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Giovanni Bonetti. Uno degli aspetti che rende l'arte cinematografica così complessa e piena di dimensioni è la sua natura collettiva. Se raramente accade che più pennelli lascino dei segni su un unico quadro o più mani scrivano ciascuna dei pensieri, dando vita a un romanzo, per il cinema è impossibile pensare il contrario. Non esiste un film che vive dei respiri di un solo uomo. Il regista sa che nulla avverrà esattamente come aveva previsto nella sua mente, per il semplice fatto che i luoghi, le immagini, i suoni che aveva immaginato diventeranno realtà. E la sua visione artistica si mischierà a quella di altri uomini. Il suo scenografo, il suo sceneggiatore, il suo direttore della fotografia e tutte le decine o centinaia di persone che partecipano a un film. Tra questi, gli attori. Quelli che trasformano ciò che prima erano solo idee in corpo, in sguardi e voce. In alcuni casi, quasi fosse un piccolo miracolo, il regista trova l'attore che sembra uno strumento creato apposta per lui. Scorsese lo ha trovato in De Niro. Io e Robert viviamo una comunione di istinti. Il lavoro che facciamo insieme vive principalmente di questo. Il regista e l'attore si conoscono fin da quando sono ragazzini. Una sensibilità affine e l'aria che hanno respirato in comune durante l'adolescenza hanno permesso a De Niro di diventare una sorta di trade union tra Scorsese e i suoi film, traducendo, con le sue apparizioni sulla scena, l'anima dell'altro. La New York di Mean Streets e di Taxi Driver, i personaggi di Quei bravi ragazzi e Casinò, facevano parte del background di entrambi. Robert sa cosa significhi un determinato sguardo in quel mondo. Lui sa come una persona dovrebbe aprire una porta o l'atteggiamento schivo che bisogna avere quando certi tipi di persone entrano in un locale. Lo scrittore e filosofo Henry David Thoreau sosteneva che gli amici non vivono semplicemente in armonia, come alcuni dicono, ma in melodia. Tuttavia, la genesi di questa melodia, anche nei connubi artistici, non ha regole precise. Se a volte è alimentata da una comunione di istinti o da una gioventù passata insieme, altre trova la sua forza dall'unione di entità che sembrano opposte. Diversamente dagli amici fraterni Martin e Robert, i protagonisti di oggi, a Destini incrociati, all'inizio della loro carriera cinematografica erano pianeti di due galassie differenti, apparentemente lontane milioni di anni luce. Negli anni 70 a Milano, un giovane regista fonda con un gruppo di amici il Teatro dell'Elfo. Porta in scena testi impegnati come Wojciech del drammaturgo tedesco Buchner e vivono gli anni della rivolta civile e sociale. Quel regista gira nell'82 il suo primo lungometraggio, un musical rock sperimentale ispirato a Sogno di una notte di mezza estate. Il suo nome è Gabriele Salvatores. Gabriele Salvatores. Il mio film d'esordio, Sogno di una notte d'estate, che riprendeva uno spettacolo nato al Teatro dell'Elfo, lo avranno visto tre persone al massimo. Mio padre, mia madre e mia sorella, quella di bocca buona. L'altra si è rifiutata. L'altro nostro protagonista di oggi, nello stesso anno, recita in 7 film e ne ha già alle spalle una decina. E senza l'aiuto di Shakespeare, spacca i botteghini. So il re del quartiere, te tengo il potere. Se perdo la pazienza, mi scatto la violenza. Su mio morto fucone, mi sento un leone e spatroneggio. I just love now, still real boscan and now, beloved too big for you. L'idioma del terruncello diventa un mantra per milioni di giovani. A scuola, nei bar, a una fermata dell'autobus, è facile imbattersi in ragazzi che parlano una strana lingua, un finto pugliese sguaiato con cui recitano interi pezzi di film. Un ciclone si è abbattuto sul cinema italiano. Si chiama Diego Abatantuono. Diego Abatantuono. Ma tu come ti chiami? Ottolo! Come? Ottolo! Come? Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia. I come ir di Dio. L come lac di sangue. E A come adesso venga e ti sfascia le corna. Potete parlare! Potete parlare! Agli inizi degli anni Ottanta, Batantuono e il suo personaggio sono già diventati una vera e propria icona del cinema popolare. Diego è un personaggio istrionico, prorompente. La sua voce è cantilenante, la sua andatura da grosso orso occupano lo schermo e si imprimono immediatamente nella memoria dello spettatore. Forse è la storia e la consistenza che sta dietro al Terruncello a renderlo così vivo. Chi lo guarda sente che oltre quella maschera mezza pugliese e mezza milanese c'è qualcosa di vero che ha a che fare con un'acuta osservazione della realtà. Diego lo spiega alle invasioni barbariche di Daria Bignardi. A Milano c'erano e ci sono tantissimi pugliesi, tantissimi milanesi. Nella zona, nel quartiere del Giambellino dove sono nato io, erano quasi tutti meridionali, quindi la mia famiglia, che nonostante di origine milanese parlava in milanese in casa, sentiva e sentivamo questo linguaggio che si modificava a seconda da quanti anni la gente si era trasferita a Milano. Quindi la gente appena arrivata era completamente pugliese, la gente che era lì da 20 anni era quasi milanese. Questa deformazione era rimasta nell'aria, la usavo io, l'ha usata Porcaro, la usavano altri. Ma tu quando hai capito che faceva ridere? Quando ho visto che la gente rideva, non ci vuole tanto. No, in effetti. E la gente rideva e come? Fin dai tempi del Derby, lo storico locale in cui negli anni 60 e 70 va in scena la comicità milanese. Di lì ci sono passati tutti: Iannacci, Cocchi e Renato, Abatantuono, Teocoli e mille altri. Era una sorta di officina permanente in cui i più vecchi si mischiavano sul palco alle nuove leve. Le serate non finivano mai. Terminato lo spettacolo, si rimaneva dentro fino al mattino a bere e improvvisare nuovi pezzi tra le nuvole di fumo delle sigarette. Materiale da cui prendere spunto ce n'era all'infinito. Gli avventori del Derby erano una fauna variegata e inesauribile. C'erano impiegati, nobili, giocatori di cavalli ed esponenti della mala milanese come Lutring, il solista del Mitra. A volte bastavano i nomi di certi avventori come il Bistecca o Le Mans a suggerire mille storie possibili nella testa dei comici. Non c'erano orari, le lancette dell'orologio erano le risate del pubblico. Questo è il cabaret. C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore. Prima di conoscersi, Diego Abatantuono e Gabriele Salvatores sono due persone agli antipodi. Ma pur abitando mentalmente terre diverse, spesso il loro occhio guarda e ama gli stessi tipi di orizzonti. Il senso dell'amicizia, dell'amore nei confronti del lavoro corale, è lo stesso. Il cabaret e il teatro li hanno resi bisognosi di un confronto continuo con gli altri. E non è un caso che i film più importanti che hanno creato insieme parlino delle sfaccettature dell'amicizia con un tono sì di commedia, ma con un rispetto verso questo sentimento quasi religioso. Questa curiosità continua verso la conoscenza di chi, almeno in partenza, sembra diverso da noi, li porta fin dagli inizi a crescere come artisti. Quello che diventerà famoso come Attila Flagello di Dio e come il Ras del quartiere a 15 anni era un ragazzino che nei pomeriggi nebbiosi e invernali di Milano attraversava la città per andare alla Palazzina Liberty ad ascoltare Dario Fo e Franca Rame, che lì tenevano il loro collettivo teatrale. È quello stesso genere di curiosità quasi febbrile che porterà Salvatores, che veniva da esperienze di teatro politico legato al movimento studentesco e ai centri sociali, ad allargare la sua visione verso altri ambiti. Nell'86 porta in scena a teatro Comedians, pièce tratta da un lavoro del commediografo inglese Edward Griffith. È una commedia tagliente, ma anche leggera, e che lancerà una nuova generazione di attori comici come Paolo Rossi, Claudio Bisio, Antonio Catania. L'esperienza è così positiva che sulla falsariga di questo spettacolo Salvatores riesce a girarne un film, Kamikazen, Una notte a Milano. No, io voglio essere qualcuno in questo mondo di modelli d'Armani che sembrano giovani nazisti, ma poi via, non sono così giovani. Kamikazen racconta la storia di alcuni scalcinati comici di cabaret che devono affrontare la classica serata della vita. Tra il pubblico c'è il responsabile di un'importante trasmissione televisiva, un'occasione da non perdere. È una commedia amara che parla, tra le altre cose, della fragilità del successo. Niente di più vicino alla realtà di Diego, che dopo l'ascesa della sua stella nei primi anni Ottanta è a un punto cruciale della sua carriera. Diego è nato con dentro lo spirito di amicizia che ti può dare un'infanzia con pochi soldi in tasca, passata con gli amici di quartiere. Quando d'estate a Milano si andava a fare il bagno alla Cava o al Lido e si tiravano fuori gli spiccioli dalle tasche. Si faceva colletta tutti insieme per prendersi qualcosa ai baracchini. Sono rapporti basati sulla fiducia, un valore che diventa presto qualcosa che non si può mettere in discussione. Ma quando cresci e vai nel mondo là fuori, le cose sono spesso diverse. Negli anni del suo boom, chi cura i suoi interessi si impegna assiduamente a spremerlo come un limone. E Diego resta senza un soldo e molti guai. Oppure migrerò come un maiale migratore, come un porcello da scogliera, i peperoni non si bagna. Guarda, i peperoni più belli del mondo, ma non mi piace guardarli. Non sono i soldi l'unico problema di Diego. Chi deve curare i suoi interessi non si preoccupa di evitare una sovraesposizione del suo personaggio. Il Terruncello gira una dozzina di film in 3 anni e alla fine la gente si stufa. Troisi, Verdone, Benigni, tutti quelli che sono riusciti col primo film a fare un grande incasso, fanno passare 1 o 2 anni per il film successivo, creando aspettativa nel pubblico. Diego è molto giovane, vive alla giornata, e questa cosa viene sfruttata. Il suo personaggio è bruciato quando Abbatantuono conosce Maurizio. In un'agenzia di spettacoli è avvenuta la svolta della mia vita. Ho avuto la fortuna di incontrare Diego Abbatantuono in un periodo in cui stava conoscendo, dopo il massimo del successo, un momento di minor popolarità. Siamo diventati amici e abbiamo fatto una tournée insieme per 1 mese. E al termine di questa siamo diventati soci. Dopo circa 1 anno abbiamo conosciuto Gabriele Salvatores. Maurizio è Maurizio Totti, il nuovo manager di Abbatantuono e successivamente il suo socio insieme a Salvatores nella casa di produzione Colorado. Maurizio si occupa di Diego, fa in modo che non vada alla deriva. Lo spinge a una minore sovraesposizione, il che vuol dire stare fermi per un po'. Una vera angoscia per un attore che solo 1 o 2 anni prima aveva raggiunto le più alte vette della popolarità. Diego ha tanti debiti, ha comprato una casa e in più deve pagare le rate dell'IVA perché i suoi consulenti non gliel'avevano mai versata. Insomma, è nei casini. Questo è un Rolex, è un assegno circolare in tutto il mondo. Questo è un Rolex. 600.000. È un assegno circolare. 600.000 pesos, 300.000 lire. Signor, tu sei simpatico, tu tieni il senso dell'umorismo. Me gusta come... me gusta, e proprio perché me gusta, questo è un Rolex. 600.000. Diego comincia anche a pensare di abbandonare per un po' il suo Terruncello. Non vuole che diventi una maschera che gli rimane appiccicata addosso, di quelle che non ti puoi più levare e finiscono per soffocarti. Quel Terruncello che Gabriele, con il senno di poi, rivaluta, ma che quando si conoscono a metà degli anni Ottanta considera di una comicità troppo pacchiana, superficiale. Prima di conoscerci, prima di incontrarci, lo consideravo appartenente a un mondo totalmente diverso dal mio e anche forse che criticavo. Il loro primo incontro non è dei più esaltanti. A entrambi viene proposto di fare un lavoro teatrale, la messa in scena di un fumetto di Altan, Fritz e Melone. Diego dovrebbe interpretare la parte di una colf che lavora per un orrendo personaggio ricco e cieco che cerca senza successo di schiavizzarla. Ovviamente non se ne fa nulla, ma Diego e Gabriele iniziano a parlare di cinema, cominciano ad annusarsi. Sono 2 personalità complesse e ci vorrebbe molto più tempo per conoscersi. Ma uno dei due è anche attore, ha tanti modi per mostrare se stesso. E Diego sfrutta una nuova, imprevista occasione nel modo migliore. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Roma, 1985. Abbatantuono passa a trovare una sua ex. Hanno vissuto insieme qualche anno e alla fine si sono lasciati in buoni rapporti, tanto che quando Diego se n'è andato, le ha lasciato la casa. Il numero di telefono è rimasto lo stesso di quando Diego viveva lì. Il caso vuole che il telefono quel giorno squilli e che Diego, altrettanto casualmente, risponda. Dall'altra parte, Pupi Avati. Il cuore dell'attore fa un balzo verso la gola, anche perché ha la sensazione che se non avesse risposto in quel momento a quella telefonata, Avati avrebbe fatto il numero dopo della fila di nomi che si era appuntato, cambiando il suo destino. Senza nessuna garanzia, lei a questo tavolo non può continuare a giocare. Come senza nessuna garanzia, scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano, loro lo sanno tutti. Come senza nessuna garanzia? Diego recita come protagonista nel film di Avati Regalo di Natale. Scherzo del destino vuole che interpreti la parte di un uomo che viene rovinato al tavolo da poker, truffato da un vecchio amico di cui si fidava. I primi giorni sul set sono molto duri per chi deve interpretare per la prima volta un ruolo drammatico, dopo che hai fatto il giullare, per quanto geniale, da una vita. Avati ricorda con affetto i primi ciak di un uomo che sta cercando di rimettersi in carreggiata e si sta giocando tutte le sue chance su un campo da gioco che non conosce. Diego si presentava completamente nudo, sprovvisto cioè di quell'arma che lo aveva portato al successo e che era quel suo modo buffo di parlare. Mi ricordo l'imbarazzo di tutta la troupe quando disse le prime due battute e i macchinisti mi guardarono come se stesse sbagliando, perché parlava normalmente. L'intelligenza di Diego è stata riuscire a non demoralizzarsi il primo e il secondo giorno, quando ho sentito da parte della troupe un grande calore, ma non un grande entusiasmo, perché facevano fatica a riconoscerlo. Dopo le difficoltà iniziali, Diego si cala perfettamente nei panni del suo personaggio e per lui è la svolta. Con Regalo di Natale dimostra di essere non solo un guitto popolare, ma anche e soprattutto un vero attore. Avati riesce a tirar fuori da Batantuono un tipo di talento che Diego stesso non sapeva di avere, quello tipico dei grandi attori della commedia all'italiana, che sanno spaziare dalla feroce ironia alla malinconia toccante e leggera, mostrando tutte le contraddizioni degli aspetti tragici e grotteschi dell'uomo. Tra Diego e Pupi si instaura una sorta di rapporto padre-figlio che dura ancora oggi. Salvatores rimane impressionato dal nuovo Abatantuono, che nel frattempo gira con Comencini Il ragazzo di Calabria. Diego riesce con naturalezza a mostrare in un impasto di comico e di patetico l'eterna fanciullezza dei suoi personaggi. Gabriele, nel frattempo, si prepara ad affrontare un film che ha come tematica portante l'amicizia e la fatica di smettere i panni della giovinezza. Entrambi, seppur così diversi, hanno la stessa visione di una nuova commedia all'italiana, così bene descritta nei suoi tratti salienti da Gemma Stornelli, autrice di un libro su Diego. Se negli anni 60 a essere ritratti erano l'arrivismo individualistico, elevato all'ennesima potenza dal neocapitalismo trionfante, e il culto sfacciato dell'arte di arrangiarsi praticato con grottesca caparbietà, negli anni di Salvatores è la volta di una dimensione adolescenziale eternamente rimpianta. Il rifiuto di smettere i panni da Peter Pan per decidersi a crescere. L'amicizia virile, calda e morbida come la coperta di Linus. Quella coperta comincia ad avvolgere assieme Diego e Gabriele quando parlano per la prima volta di Marrakesh Express. È una sceneggiatura scritta per Carlo Mazzacurati, che però vi deve rinunciare per altri impegni. La prende in mano Gabriele. Ha già il suo gruppo di attori, ma chiede a Diego se è interessato a fare una parte. Gli propone quella dell'amico che viene trovato alla fine del viaggio. Diego lo guarda, poi con totale naturalezza risponde che non gli interessa. O fa tutto il viaggio con gli altri o non se ne fa nulla. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati, Diego Abatantuono e Gabriele Salvatores hanno appena intrapreso un viaggio insieme. Sono due persone completamente differenti. Uno viene dal teatro impegnato e ha partecipato alle lotte politiche degli anni 70. L'altro ha fatto vita notturna da cabaret e il suo talento comico è sfociato in pellicole come Eccezionale veramente e Attila flagello di Dio. È la storia del loro incontro e della loro amicizia che, cambiando il loro percorso artistico, darà alla vita dei film epocali nella storia del cinema italiano. Ma vi rendete conto dove siamo, ragazzi, noi? In mezzo al deserto, in bicicletta. Probabilmente persi. Non ci siamo persi. Sicuramente persi, cercando un posto che non sappiamo neanche che posto è. Dove forse ci sono i due stronzi, ma dico forse. Sulle indicazioni di un dentista. Tedesco, albino, drogato, omosessuale. Ed è il suo concubino che è un ergastolano. Quando una canzone, un film si stampano nella memoria come se fossero sempre state nascoste da qualche parte nella nostra testa, quella canzone, quel film diventa un classico, un capolavoro. Come Marrakesh Express, la storia di un viaggio e di un sentimento che è stata vissuta davvero. E quell'amicizia che nasceva tra Gabriele, Diego e gli altri attori del film aveva la stessa intensità di quella antica e ora ritrovata dei personaggi del film. Il momento dei sopralluoghi per decidere le location diventa, dal punto di vista creativo, essenziale. Diego e Gabriele stanno via un mese, se la fanno tutta in macchina da Milano a Marrakesh e poi più avanti, fino al deserto. Giornate e serate insieme. E ogni giorno che passa cementa il rapporto. Durante il viaggio nascono un sacco di idee che entreranno nel film. I due trovano un modo di confrontarsi che poi adotteranno in tutti i loro lavori insieme. La sceneggiatura è la base da cui parte un lavoro costante e continuo di rielaborazione che dura anche tra un ciak e l'altro. La vena comica e battutara di Diego può trovare libero sfogo perché sa che Gabriele terrà sempre sotto controllo le linee narrative della storia. E Gabriele sa che può osare e cogliere gli attimi di nuove ispirazioni perché sa che Diego e gli altri attori capiranno al volo dove sta andando a parare. Marrakesh è tutto un film on the road. Un po' per scelta, un po' per necessità di budget. Tutti assiepati su un pullman come una lunga gita scolastica per adulti. E via via che si viaggia, ci si ferma sui set. E i madì, chi era da sortire aujourd'hui, a midi, a stamagnana, alle due, après... Bonjour, je m'appelle Ponchian, e ci suis per un'informazione, alle due, après midi, era da sortire in italiano. Diego ha trovato e troverà nei personaggi che costruisce per lui Gabriele la possibilità di ripercorrere i passi degli attori che ha sempre amato, quelli della commedia italiana degli anni 60. Gassman, Tognazzi, gente che sapeva far piangere e ridere in una stessa scena. Abatantuono riesce a esprimersi al massimo in quei ruoli che assomigliano a se stesso, che mischiano la malinconia, la sensibilità e il romanticismo a uno sbruffoneggiare imbarazzato che le mitiga, tentando di nasconderle. Lei era una ragazza greca, molto carina, veramente carina. Era un certo bella come te, tu sei molto più bella. Li vedi i delfini? No, sono Tony. Ma va? Sono delfini. In film come Marrakesh, Tournée e Mediterraneo, Abatantuono e Salvatores creano un clima emotivo probabilmente irripetibile. L'amicizia è davvero la spina dorsale su cui si basa tutto. I rapporti dettano il ritmo al cuore del film e la storia stessa cambia. In Marrakesh, da copione, i due amici che litigano di continuo avrebbero dovuto essere Giuseppe Cederna e Gigio Alberti, che però nella realtà si adoravano. Invece Diego e Giuseppe non andavano troppo d'accordo e così, per dare più spessore e verità ai personaggi, il film si è adattato alla realtà della vita. Ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e cinque in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose. Anche le regole. Anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Telefonare a casa è permesso? Tre volte. Grazie. Prego. Sono proprio contento di essere venuto. I lavori di Gabriele e Diego sono contaminati dalla vita vera e la vita vera cambia perché loro fanno film insieme. Diego presenta all'amico sua moglie che, quando divorzieranno, diventerà la compagna di Gabriele. L'amicizia tra i due dimostra anche in quest'ambito la sua natura. Diego è contento che due persone a cui vuole bene e che stima stiano insieme, che la madre di sua figlia stia con un uomo come Gabriele. e si irrita profondamente quando qualcuno si intromette nella situazione vedendo l'occasione per fare del gossip. La prima è meglio. C'ho una battuta, ma non la faccio. Falla. Ma che ti sei scambiato la moglie con Salvatore? Ma questa è una battuta. No, ma non è vero. Cioè, no, che tu adesso stai con quella che era l'ex moglie di Salvatore, questa, e l'ex moglie di Salvatore sta... È pazzesco come voi, sì, che siete persone di... Ma perché è vero o no? Snob, e poi soprattutto no, di cultura... Ma che snob? Beh, sì, no. Però volevo dire che no, questa storia è molto semplice. Io avevo una moglie e come capita nella vita, ti incontri un'altra persona, succede per una serie di motivi, ti stacchi. Successivamente la mia ex moglie, fortunatamente per me, per mia figlia, si è messa con una persona come Gabriele, che è fantastica, quindi noi abbiamo avuto questa fortuna. E io cosa ho detto? No, tu hai detto una cosa diversa, hai detto che la mia ex moglie stava con uno, cioè questo gioco che è stato citato molte volte. Vabbè, perché è carino, dai. Vabbè. Gabriele e Diego, ormai dopo mille domande e insinuazioni su questa situazione, ci scherzano sopra anche tra loro. E c'è un episodio che racconta Salvatore al Corriere, emblematico di come gli avvenimenti tra i due amici spesso assomiglino a qualche scena dei loro film. Mentre Salvatore riporta questo aneddoto, è facile immaginarsi una strada di campagna. Immaginiamo un bentivoglio alla guida con una bambina al suo fianco. Lei, in questo ipotetico film, è la figlia di Abatantuono. I due parlano insieme. Una volta eravamo a Lucca e portavo a scuola Marta, la figlia di Diego, che andava in prima elementare. Scendevamo dai tornanti, lei era assorta. Dopo un paio di curve mi fa: «Gabriele, cosa vuol dire froccio?» «No, guarda, allora ti spiego bene. Froccio è una parolaccia, è un insulto. Puoi dire gay, omosessuale. Si tratta comunque di uomini a cui piacciono altri uomini. È amore ed è rispettabile». Altri tre tornanti e Marta: «Gabriele, ma a te la mamma piace?» «Certo che mi piace molto, ci sto insieme». «E allora perché papà dici che sei froccio?» In questa scena è facile pensare a Bentivoglio nella parte di Salvatores, perché in fondo è lui l'alter ego del regista. In un film come Tournée, ad esempio, si ha sempre la sensazione che ci sia una sorta di filo che lega il personaggio interpretato da Fabrizio col regista, come se rappresentasse quasi la voce narrante nascosta di Gabriele. E Diego è l'amico, così diverso e lontano per tanti aspetti, con cui condividere amore, speranze, tradimenti. Tournée è probabilmente il film che racconta al meglio la vera amicizia tra i due. And we live on borrowed time, but this headshot's pretty good. I've been scheming for too long. I was starstruck by your mom. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati la storia di un'amicizia e di come questa amicizia ha creato dei momenti di cinema indimenticabili. Storie che rimangono impresse nella memoria dello spettatore perché hanno un alto grado di sincerità, quella che si respirava su ogni set che hanno condiviso. Perché, come dice il poeta Ralph Emerson, un amico è una persona con la quale io posso essere sincero. Davanti a lui, ogni giorno, io posso pensare a voce alta. Quegli amici sono Diego Abatantuono e Gabriele Salvatores. Questo spirito si srotola su tutti i loro film di quegli anni, rendendoli per certi versi un corpus unico. Fin da Marrakesh, Diego e Gabriele capiscono che girare in situazioni di isolamento come il deserto rende l'affiatamento del gruppo ancora più intenso. È così che nasce l'idea di fare un film su un'isola, magari dei Caraibi o del Mediterraneo. È così che finiranno a fare un viaggio sopralluogo che li porterà in una allora sperduta isoletta dell'Egeo, Castellorizzo. È un posto dove non c'è praticamente nulla, magari non l'ideale per una troupe normale, ma a loro non sembra che esista un posto più perfetto. Per quasi due mesi la troupe vive e lavora insieme, 24 ore al giorno. Chi non gira una scena sta in acqua a fare il bagno. Quando è il suo turno, viene chiamato sul set, esce dal mare, si asciuga e comincia le riprese. C'è un unico bar sull'isola dove si passano le serate. Manca solo il televisore per vedere le partite dei mondiali di Italia 90. Si fa una colletta e se ne compra uno. Il cameratismo dei soldati, che per 3 anni vivono su un'isola praticamente deserta, è lo stesso degli attori. Al lavoro. Volere parlare per lavoro. E che lavoro fare? Io sono una putta. Putta che in greco... Una puttana. Per piacere! Sì, bravo. Puttana. Sì. Bravo. Bravo. No, dicevo, per piacere, c'è modo e modo di dire, il concetto resta quello. Vuoi interessare? Io ti dissi, scusa cara, cosa cazzo ti prepari per l'estate? Siamo ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti, mi dicesti, siamo onesti, vuoi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi, no, prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi, ma pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia ci andavate solo per sentirvi. Che ne sai della nostra ferrovia che trafigge i solai? Che ne sai? Puttana. Salvatores, considerando i suoi film della fine degli anni Ottanta, spesso è stato etichettato come il regista delle fughe e dei viaggi. In realtà, Gabriele è stato in quel periodo il regista dell'amicizia e delle sue sfaccettature. Ha sentito che per parlare di sogni, di speranze, di contraddizioni e di fallimenti, doveva raccontarli coralmente. Diego, insieme a lui di quel coro, era il direttore d'orchestra. Poi, professionalmente, dopo quegli anni, hanno preso strade diverse. O comunque non così intrecciate l'una con l'altra. Il motivo lo spiega Salvatores, un artista che, come tanti, è alla perenne ricerca di qualcosa a cui non si è ancora riusciti ad arrivare. Nella vita non riesco a cambiare continuamente e a improvvisare come faccio nel cinema. Nel cinema ripetere una cosa già fatta mi fa venire l'ansia. Mi piace cercare continuamente, come se imparare a fare bene una cosa mi facesse sentire vicino alla morte. Nel 2009 Salvatores ha girato Happy Family e non è un caso che per la sua famiglia felice abbia rivoluto con sé a Abatantuono e Bentivoglio, ricreando sul set e sullo schermo quel clima di complicità vissuto insieme 20 anni prima. Quando in una conferenza stampa per il film hanno chiesto a Diego com'era stato lavorare nuovamente con Gabriele, l'attore ha risposto così. No, la cosa strana è che sembra che sia passato 2 ore e mezzo, insomma, sembra il giorno dopo di una mattina a Air Food nel deserto. L'amicizia tra due persone di talento è spesso complessa. Ci si mettono di mezzo l'ego, l'orgoglio e le forti personalità a rendere le cose difficili. Ma quando questo non succede, nasce una specie di magia. E i rapporti reali vengono raccontati diventando dei momenti indimenticabili per tutti quelli che hanno la fortuna di esserne spettatori. Non so voi, ma io era anni che non mi divertivo così, ragazzi. Erano anni che non ti divertivo così. Da quando non mi frequenti più a me. Perché ricordi che con me ti sei sempre divertito. Di no. È Cedrone, dove ti ho portato. Ma dove mi hai portato? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. All on board. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.